Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Ai mondiali sudafricani in corso in queste settimane non c'è soltanto la nazionale azzurra a difendere i colori dell'Italia. C'è un altro pezzetto del nostro paese che lotta per il titolo mondiale. È rappresentato da un uomo che siede sulla panchina di un'altra selezione. È quella inglese, a caccia di un trofeo che manca da 44 anni. Ed è guidata da uno degli allenatori più vincenti al mondo, Sir Fabio Capello. Fabio Capello. We made the first step and we go to South Africa, but we have to work a lot to win. We are a good team, we are playing well, but we have to stay with the feet on the floor. Quello che avete sentito è un passaggio della conferenza stampa che Fabio Capello rilascia all'indomani della qualificazione per i mondiali sudafricani. Fiducia ai suoi giocatori, realismo, concretezza e durezza sono gli ingredienti salienti della personalità del tecnico. Tratti che si ritrovano nel suo calcio e che l'hanno reso uno degli allenatori più cercati e considerati del mondo. Com'è diventato l'unico allenatore ad avere vinto lo scudetto su tutte, ma proprio tutte le panchine su cui si è seduto? Facciamo un salto indietro. 18 agosto 1995, Stadio San Siro. Si sta per disputare il trofeo Luigi Berlusconi, uno dei tradizionali appuntamenti estivi del precampionato. Di fronte, come sempre, Milan e Juventus. Prima della gara, però, va in scena un momento di grande commozione per tutto il popolo milanista. Uno dei più grandi campioni di sempre, l'olandese Marco van Basten, lascia il calcio a soli 30 anni per problemi a una caviglia. Camicia rosa, jeans, giacca di renna, sguardo triste. Van Basten fa un giro del campo raccogliendo gli applausi dei tifosi rossoneri giunti a salutarlo. Anche i giocatori del Milan, i rivali della Juventus, l'arbitro Pierluigi Collina sembrano commossi. Ma chi non riesce a trattenere le lacrime sulla panchina dei rossoneri è l'allenatore, Fabio Capello. Capello è un duro, ma guardando Marco che fa il giro del campo e si congeda dal mondo del calcio, non riesce a trattenere le lacrime. Tra i due, un legame speciale. Non solo perché l'olandese, con le sue straordinarie prodezze, ha regalato a Capello nelle prime due stagioni vittorie straordinarie, ma anche perché un rocambolesco incrocio di destini di questi due uomini ha permesso a Capello di iniziare la sua straordinaria carriera. Andiamo allora a scoprire come, iniziando a capire, però, chi è Fabio Capello. Siamo dell'Inghilterra, sono maestro di inglese del calcio. E giocare contro l'Inghilterra è una grossa soddisfazione e riuscire a batterla finalmente sarebbe il massimo. La dichiarazione che avete appena sentito risale al 1973. L'Inghilterra nel destino. La dichiarazione che avete appena sentito risale al 1973. L'Inghilterra nel destino, si potrebbe dire. All'epoca Fabio ha 27 anni. È uno dei centrocampisti più forti d'Italia ed è una colonna della nazionale di Valcareggi. Mercoledì 14 novembre a Londra, nel mitico stadio di Wembley, per un amichevole di lusso si affrontano gli azzurri e gli inglesi. L'Italia non ha mai vinto oltremanica e questo dà alla sfida un sapore particolare. La spavalderia britannica fa il resto. 100.000 spettatori che sostengono a gran voce la propria squadra, che si sente invincibile. Gli azzurri entrano caricati a mille. Capello fa galoppare Chinaglia sulla destra. Giorgione sbilancia con una finta Moore ed esplode un gran destro. Shilton ribatte, Capello in agguato, mette dentro, 1-0. È il gol partita. Gli inglesi si riversano nella metà campo azzurra senza ottenere niente se non uno sterile possesso palla. Anzi, rischiano di prendere il secondo gol in contropiede. Il match si conclude con la vittoria per 1-0 degli azzurri. Capello entra nella storia. Sigla il gol con cui l'Italia espugna il tempio del calcio, il leggendario stadio di Wembley. Per gli inglesi è uno smacco enorme. I giornali inglesi il giorno dopo titolano «I camerieri e i maccheroni italiani hanno ballato sulla tomba del calcio inglese». Fabio Capello nasce a Pieris, vicino a Gorizia, il 18 giugno 1946. Suo zio materno lo indirizza verso il pallone. È Mario Tortul, attaccante della Sampdoria e della Nazionale a cavallo tra i 50 e i 60. Così Fabio inizia a giocare molto giovane, dimostra subito buon talento e buona attitudine. Se ne accorge Paolo Mazza, dirigente della SPAL, la squadra di Ferrara, che lo preleva dalla società del suo paese e lo porta via. A Ferrara esordisce nel 1964 a soli 18 anni. A Ferrara resta 3 stagioni in prima squadra, 49 partite e 3 reti totali. Le buone prestazioni gli fruttano l'interessamento di una grande squadra, la Roma. Nella squadra giallorossa, oltre ad ottenere grandi successi, incontra un modello fondamentale per la sua futura carriera di allenatore, Elenio Herrera, il mago. Andiamo, fermo! Sì, Herrera, che cosa prova lei in questo momento in cui la squadra ha vinto matematicamente il campionato? Siamo molto contenti perché abbiamo meritato non solo questa partita, ma tutto il campionato, sportivamente e tecnicamente. Elenio Herrera, allenatore spagnolo, giunge in Italia nel 1960. È l'artefice della grande Inter, la squadra che a metà degli anni 60 vince praticamente tutto. Herrera, al di là dei successi, è un allenatore fondamentale per la storia del calcio. Istrione, accentratore, perfezionista, è stato il primo a concepire la figura dell'allenatore come una sorta di psicologo, di valorizzarne doti come il carisma e la capacità di caricare i propri giocatori. Per Capello il rapporto con Herrera è importante prima di tutto come giocatore. A Roma infatti Capello fa il salto di qualità, diventa un centrocampista completo e si avvicina al giro della nazionale. Non solo però, Herrera per Capello sarà un modello da tener presente quando deciderà di intraprendere la carriera di allenatore. Con la squadra giallorossa, Fabio Capello gioca 3 stagioni, totalizzando 62 presenze e 11 reti. L'unico trofeo che riesce ad aggiudicarsi è la Coppa Italia nel 1969. Nel 1970, dopo la delusione della mancata convocazione al Mondiale messicano, il centrocampista decide che è arrivato il momento di cambiare aria. Così, nel 1970, Fabio Capello viene acquistato dalla Juventus. È la definitiva consacrazione della sua carriera. A Torino vince 3 scudetti e diventa anche un pilastro della nazionale, con cui colleziona 32 presenze e 8 reti, tra cui quella memorabile di Wembley. Tanto per ribadire che Fabio Capello sembra avere l'Inghilterra nel proprio destino, è utile ricordare che nel 1973 segna un'altra rete memorabile agli inglesi, in un'Italia-Inghilterra che si gioca a Torino il 14 giugno e finisce 2-0 per l'Italia. Una rete così bella da ispirare la scena più memorabile del film di Franco Brusati, Pane e cioccolata. Con gli azzurri, Capello partecipa allo sfortunato mondiale del 1974, in cui parte sempre titolare e segna anche un gol, quello con cui l'Italia accorcia le distanze contro la Polonia, nella partita che porta però la nostra nazionale all'eliminazione. Capello chiude con la nazionale nel 1976, con lo sventurato campionato europeo da cui l'Italia viene eliminata al primo turno. Nello stesso anno passa al Milan, dove chiude la carriera aggiudicandosi lo scudetto della stella. E il Milan è campione d'Italia. Ecco, vedete le immagini a centrocampo del pubblico, di una parte del pubblico milanista che festeggia la sua squadra. La stagione successiva è l'ultima di Capello, che si ritira a 34 anni. Come per molti giocatori, anche per lui la scelta è quella di intraprendere la carriera di allenatore. Rimane al Milan, che gli offre l'opportunità di lavorare nel settore giovanile. Nella primavera rossonera, Capello ha la possibilità di coltivare un giovane che si chiama niente meno che Paolo Maldini, il quale anni dopo dichiarerà alla stampa: «Capello è stato un vero maestro per me. Già allora mi ha insegnato la disciplina e la cultura del lavoro». I'm the only one who's gotta look my family Anni 80 per il Milan sono un decennio complicatissimo. Nella stagione successiva allo scudetto della Stella, il 1979-80, i rossoneri arrivano terzi a 5 punti dall'Inter. Tuttavia, a fine stagione scoppia lo scandalo del calcio scommesse. Il Milan viene incluso tra i responsabili a livello societario e arriva una punizione severissima. Il Tribunale Sportivo decide per la retrocessione e l'onta della Serie B, uno sfregio che i cugini nerazzurri non smetteranno mai di rinfacciare ai milanisti. Il Milan rimane un anno nella Serie Cadetta, lottando con dignità e forza di volontà. Vince subito il campionato e torna in A. Ma la società è dissestata e allo sbando e al termine della stagione 81-82, questa volta per demeriti sportivi, retrocede nuovamente. Di nuovo il baratro della B. Un anno di purgatorio. La stagione 1983-84 vede il Milan ancora nella massima serie, questa volta per rimanerci. Ma siamo ancora lontani dalle qualità necessarie per tornare a essere una squadra vincente. Serve una riorganizzazione, una sterzata. Un cambio di rotta che inizia a profilarsi nel gennaio del 1986, quando l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, dopo aver tentato senza successo di acquistare l'Inter, palesa il proprio interesse per la società rossonera. Un mese dopo, l'affare si conclude. Silvio Berlusconi è il nuovo padrone del Milan. Appena arrivato al Milan, il cavaliere rilascia alla stampa una dichiarazione carica di promesse. Il Milan deve diventare la squadra più prestigiosa del mondo, attraverso le vittorie dei più importanti trofei internazionali e in forza di un gioco spettacolare nel rispetto degli avversari. Voglio un Milan coraggioso in Italia e all'estero, padrone del campo, padrone del gioco. Il bel gioco deve essere il nostro principale traguardo e ricordatevi che chi ci crede vince. L'imprenditore milanese, quindi, manifesta subito progetti ambiziosi per la sua nuova squadra. Vuole raggiungere grandi traguardi in breve tempo e possibilmente attraverso il bel gioco. Vuole soprattutto svecchiare l'ambiente, realizzare un progetto imprenditoriale moderno e organizzato. Per la stagione 1986-87, Berlusconi conferma Nils Liedholm sulla panchina rossonera e non opera grandi rivoluzioni. La squadra però stenta a decollare. Da metà stagione in poi il presidente entra in rotta di collisione con Liedholm. Berlusconi vede nell'allenatore svedese un tecnico ancora troppo legato a una concezione del calcio che il presidente vede come sorpassata. Il cavaliere sogna una squadra all'avanguardia che rompa col passato e con la tradizione. A 6 giornate dalla fine, poiché il Milan staziona ancora fuori dalla zona UEFA, obiettivo di inizio stagione, il barone, questo è il soprannome di Liedholm, viene esonerato. Al suo posto Berlusconi mette proprio Fabio Capello, prelevandolo dalla primavera. L'ex centrocampista friulano ha la sua grande occasione. Fabio sembra sfruttare la chance che il destino e Berlusconi gli hanno regalato. Il Milan infila una striscia vincente e rimonta alcune posizioni, rientra nei piazzamenti validi per un posto in Coppa UEFA e si inerpica fino allo spareggio con la Sampdoria. Capello carica i suoi giocatori con la tensione giusta e vince la gara decisiva grazie a un gol di Daniele Massaro. I rossoneri si sono guadagnati un posto in Europa per la stagione successiva, ma a guidare la squadra nell'anno seguente non sarà Fabio Capello. Berlusconi affida il suo progetto a un altro giovane tecnico, al momento al Parma, fautore di un calcio offensivo e innovativo, Arrigo Sacchi, per il quale il cavaliere appronta una campagna acquisti faraonica. È l'inizio di un ciclo vincente per i rossoneri. La carriera di Capello, invece, che sembrava lanciata, deve aspettare. Viene infatti messo in una posizione di dirigente nella polisportiva Mediolanum. Vi rimarrà 4 anni, fino a quando il rocambolesco incrocio con il nostro secondo personaggio lo instraderà verso una brillante carriera. Tra poco, a destini incrociati. Falling, now all I do is just call your name. I say love. Destini incrociati. Oggi a Destini Incrociati abbiamo raccontato la prima parte della vita di Fabio Capello, l'attuale CT dell'Inghilterra, uno degli allenatori più vincenti e considerati al mondo. Prima di diventare allenatore, Capello ha una brillante carriera da calciatore nella Roma, nella Juventus, nel Milan e nella Nazionale. Poi si accomoda in panchina. Fa la trafila nelle giovanili del Milan, arriva in prima squadra e qui il suo cammino si interrompe. Nel 1987 Berlusconi sceglie Arrigo Sacchi per guidare i rossoneri. Capello diventa dirigente della Polisportiva Mediolanum. La sua carriera di allenatore ripartirà qualche anno dopo, grazie a un altro personaggio del mondo del calcio, che proprio in quel 1987 arriva al Milan. Il suo nome è Marco Van Basten. Marco Van Basten. Marco Van Basten è stato probabilmente il più grande centravanti del calcio moderno. Giocatore completo, univa un fisico potente da centrattacco puro a una tecnica sopraffina, quasi da numero 10. Un unico punto debole? Le caviglie di cristallo, che gli hanno procurato infortuni a ripetizione e hanno posto fine prematuramente, a 30 anni, alla sua straordinaria carriera. Marco Van Basten nasce a Utrecht, in Olanda, il 31 ottobre 1964. Suo padre è un ex calciatore e riconosce subito nel piccolissimo Marco i segni del talento. Lo porta così a soli 6 anni nella squadra della sua città, dove rimane fino a 15 anni, quando viene notato dagli osservatori dell'Ajax e portato ad Amsterdam. L'Ajax è il club più titolato d'Olanda, ma soprattutto è il club del grande Johan Cruyff. Derby. Cruyff. Johan Cruyff. Pelé Bianco, calciatore totale. Sono solo alcuni dei soprannomi che vengono affibbiati al grande Cruyff. Quando nel 1982 Van Basten arriva all'Ajax, l'asso olandese è nella fase calante della sua carriera. Ma è sempre e comunque il calciatore simbolo, un modello, come conferma lo stesso Van Basten. Sono arrivato all'Ajax giovanissimo e per me Johan era un mito, un idolo. Già solo potermi allenare con lui, era incredibile, era la realizzazione di un sogno. Potevo imparare molto semplicemente osservandolo, osservando i suoi movimenti. Il destino ha in mente una trama molto più entusiasmante per Marco. Non solo gli permette di allenarsi accanto al suo idolo, ma addirittura fa sì che l'esordio in prima squadra avvenga proprio prendendone il posto in una partita di campionato. Sì, era il 3 aprile 1982. Avevo 17 anni. Cruyff non era in perfette condizioni fisiche, così all'inizio del secondo tempo sono stato mandato in campo al suo posto. È stata un'emozione incredibile, ma sono rimasto calmo e ho segnato il mio primo gol in campionato. È il primo di una lunga serie. Marco diventa presto titolare e la sua media gol cresce in maniera impressionante. 9 gol in 20 partite nell'82-83, 28 in 26 partite la stagione successiva, addirittura 37 in 26 partite nell'85-86. Cruyff abbandona. Marco diventa il simbolo dell'Ajax e del nuovo calcio olandese. Vince una Coppa delle Coppe nel 1987. I maggiori club europei gli mettono gli occhi addosso. È quello che ci vuole, insomma, per il progetto vincente di Silvio Berlusconi. La prima stagione al Milan di Marco Van Basten è sotto le aspettative a causa di un infortunio che lo mette KO per gran parte della stagione. Marco fa comunque in tempo a rientrare a poche giornate dalla fine del campionato e a partecipare al trionfo tricolore del Milan, segnando 2 importanti gol contro Empoli e Napoli. Van Basten torna in forma per i campionati europei del 1988, cui partecipa con la sua nazionale. L'Olanda, trascinata dai gol di Van Basten, arriva dritta in finale contro l'Unione Sovietica. Qui, proprio contro i russi, l'attaccante olandese compie il suo capolavoro. Van Dingelen, Muren, di prima. Attenzione, Van Basten si coordina e lascia partire uno stupendo tiro che batte da Sayer. ottimo gol di Marco Van Basten. L'Olanda vince il suo primo campionato europeo, regolando l'Unione Sovietica per 2-0 nella finale. Dopo l'estate, Marco, tornato al top della forma, si ripresenta a Milano più forte che mai. A dicembre la giuria di France Football non ha dubbi. A Van Basten viene assegnato il pallone d'oro. Il Milan di Sacchi, trascinato dai suoi gol, si porta a casa la Coppa dei Campioni, distruggendo il Real Madrid in semifinale e dominando la finale contro lo Steaua Bucarest a Barcellona. Finale in cui Marco segna due splendide reti. Va ultimamente Tassotti, ecco il suo traversone. Van Basten, gol! Gol di Van Basten! Stupenda questa azione del Milan con Marco Van Basten che porta al raddoppio il Milan. Appena cominciato da 50 secondi il secondo tempo, Marco Van Basten segna il quarto gol per il Milan sullo Steaua. Van Basten, appena entrati in collegamento, amici telespettatori, avete visto il quarto centro del Milan che pone a questo punto, lo possiamo dire, anche se naturalmente c'è sempre il timore di andare contro la scaramanzia, i giochi sono fatti. È il 1989. A fine anno Marco vince nuovamente il pallone d'oro, che lo consacra miglior giocatore d'Europa. Il Milan di Sacchi costruisce le sue vittorie proprio sulle prodezze di Marco. Sempre nel 1989 arriva la Coppa Intercontinentale. L'anno successivo la seconda Coppa dei Campioni e a seguire il bis intercontinentale. Il ciclo del Milan di Sacchi sembra inarrestabile. Qualcosa si spezza, però, nella stagione 1990-1991. I rossoneri sono a caccia della terza Coppa dei Campioni. Le cose però non girano bene, come nelle stagioni precedenti. Si parla di screzi proprio tra Van Basten e l'allenatore Arrigo Sacchi. I malumori emergono nel quarto di finale contro il Marsiglia. Nella partita d'andata a San Siro, i rossoneri si fanno bloccare sull'1-1. Ci si gioca tutto al ritorno. A Marsiglia però i rossoneri, oltre alla coppa, perdono anche la faccia. I rossoneri sono sotto 1-0. Mancano pochi minuti alla fine, si profila una bruciante eliminazione. A un certo punto, nello stadio francese, accade qualcosa. Un riflettore si spegne improvvisamente. Niente che comprometta particolarmente la visibilità, tanto più che manca pochissimo al fischio finale. Il Milan però si ferma, si rifiuta di proseguire. Con una decisione impulsiva, Adriano Galliani fa ritirare la squadra. Quando il riflettore riprende a funzionare, il Milan non torna in campo. Perderà la partita a tavolino, ma soprattutto subirà una pesante squalifica. Un anno senza coppe europee, fuori da quell'Europa che aveva visto i rossoneri dominare negli ultimi 2 anni. A fine stagione, il ciclo del Milan ha bisogno di ossigeno e di un rinnovamento. Arrigo Sacchi avanza le sue richieste. E qui il destino rimescola le carte, rimette in gioco Fabio Capello. Il tecnico romagnolo, infatti, pone a Silvio Berlusconi una richiesta shock. Esasperato dai continui scontri con Van Basten, campione dotato di grandissima personalità, Sacchi pronuncia un perentorio «o io o lui». Berlusconi è messo davanti a un bivio: chiudere il ciclo sacchiano o proseguire rinunciando alla star, al fuoriclasse. Il presidente non ha dubbi. Van Basten resta. E per la panchina del Milan si ricorda di quell'uomo che qualche anno prima aveva salvato la sua prima stagione rossonera, trascinando la squadra in Coppa UEFA. È proprio Fabio Capello. Yes Man. È una definizione inglese che sta a indicare quegli assistenti che obbediscono fedelmente ai propri datori di lavoro senza creare problemi e senza eccessi di personalità. Uomini di facciata, di cartapesta. Fabio Capello inizialmente è inquadrato così. Un dirigente di una delle tante aziende del gruppo Fininvest, messo sulla panchina del Milan per gestire in maniera serena e pacifica il giocattolo del capo pieno di campioni. Non sarà così. Al contrario. Sarà l'inizio di un ciclo che Capello segnerà indelebilmente con il proprio marchio di fabbrica e che diventerà il suo trampolino di lancio per una carriera strepitosa. Tutto grazie a quell'incrocio con Marco Van Basten e allo scontro tra l'olandese e Arrigo Sacchi. Ora Van Basten e Capello costruiranno insieme un'epoca di successi straordinari. Tra poco, a destini incrociati. Clover, baby, can't you see? I want to talk it over. Destini incrociati. Oggi raccontiamo l'incrocio di destini di Fabio Capello e Marco Van Basten. Il primo, infatti, diventa allenatore del Milan quando il fuoriclasse olandese arriva ai ferri corti con Arrigo Sacchi. Il tecnico di Fusignano pone un out-out a Berlusconi, o lui o io. Berlusconi sceglie Van Basten e allontana Sacchi. Al timone del Milan viene messo Capello, che erroneamente la stampa scambia per un semplice yes man. Capello e Van Basten riaprono un ciclo vincente per i rossoneri. Bisogna cambiare il regolamento, far giocare le squadre 18 a 16, allora sarebbe molto più facile. Purtroppo si giocano solo in 13 al massimo, per cui questo discorso del turnover che abbiamo introdotto all'inizio del campionato deve essere accettato. Turnover. Il primo Milan di Capello introduce nel calcio italiano questa magica parola. La campagna acquisti di Berlusconi, infatti, non va da spese. Arrivano Gianluigi Lentini, per una cifra record dal Torino, e Jean-Pierre Papin. E poi Zvonimir Boban e Dejan Savicevic, per fare altri nomi illustri. Una squadra faraonica, non la situazione più facile da gestire per un tecnico all'esordio, considerando anche che il Milan gioca solo il campionato, perché è escluso dalle competizioni europee per la squalifica legata alle luci di Marsiglia. Ma Capello non difetta certo di personalità. Finita anche a San Paolo, Milan campione d'Italia, dunque matematicamente si abbracciano al centro del terreno i giocatori di Capello mentre c'è una festosa invasione da parte di un nucleo di fotografi che vogliono evidentemente immortalare le scene di giubilo dei giocatori rossoneri che con grande merito hanno vinto questo titolo. Imbattuto dopo 32 gare, 20 vittorie e 12 pareggi, 62 gol segnati, 19 subiti. Il Milan ha vinto il suo 12° titolo e la squadra dei miracoli che Capello, bisogna dirlo, ha guidato con molta. Capello zittisce gli scettici e guida il difficile gruppo da maestro. Marco Van Basten è leader di questa squadra. Segna 25 gol in 31 partite, si laurea capocannoniere, è assolutamente immarcabile per le difese avversarie. Tra lui e Capello si crea un binomio di ferro. Il tecnico friulano si gode il suo primo grande trionfo. Fabio, un campionato tutto giocare contro se stessi, è stato difficile. La vita è sempre giocare contro molte cose, contro molti problemi, però questa volta devo dire che la squadra, i miei collaboratori, la società sono stati veramente straordinari. Io ho dato il mio e loro veramente hanno avuto grandissima parte. Dicevamo Fabio Capello potrebbe avere problemi a guidare una Ferrari, non è vero? Beh, questa è veramente una Ferrari, direi in questo momento probabilmente una Williams, visto il distacco che stiamo dando agli altri. Vinto il primo campionato, Capello e Van Basten si preparano alla sfida più grande, riportare a Milano la Coppa dei Campioni l'anno successivo. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.